non ci sono da seggiole, non c'è più da sedersi. Potete aprire un pochino per favore la finestra, perché sennò sono un'idea qui. Buongiorno a tutti. C'è un piccolo spostamento di orari che mi è stato chiesto dalla segreteria, perché no, ma piccolissimo, invisibile. Perché gli studenti che devono seguire il lettorato di francese hanno dei problemi il lunedì. Quindi allora lo spostamento a cui gentilmente, benevolmente ho consentito è il seguente. Che il lunedì, la prima ora, cioè quella delle 12, delle 13, sarà riservata al terzo anno, cioè al corso su Mallarmé. Molto semplice. Mentre la seconda ora, no? Quella delle 13-14, sarà riservata al corso per il primo anno di Flaubert. Tutto qua, il resto rimane invariato. Chiederei alla vostra cortesia ancora di aprire un poco, perché qui non avete idea che... Aprite un poco la finestra, se possibile. Scusate, ma proprio ce l'ho... Ecco, grazie, grazie molto. Sì, ma arriva io la voce. Allora, ieri, se vi ricordate, andiamo in mezzo alla gente. Ah, chi si vede qui? Sono persone lì. Dunque, ieri stavamo parlando di una scena decisiva, che è quella del più o meno 4 gennaio, del primo giorno di gennaio del 44, in cui Flaubert ha un incidente abbastanza misterioso, che viene scambiato, e poi non si sa naturalmente come sono andate le cose, per epilessia, che comunque diventa per lui un pretesto per interrompere gli studi. Ma non è soltanto una cosa così banale, evidentemente. E la questione è più complessa, è il fatto che questa immaginazione sovraeccitata che aveva trovò in qualche modo un alimento da questa scena abbastanza terribile che aveva, perché ricorderete che c'era appunto questo carro di fuoco, possiamo dire quasi in senso biblico, che gli veniva in senso opposto. Lui non riusciva più a guidare, uno che poi era il fratello, mi ricordo più se erano due o tre persone sulla carrozza, ma direi poco importa, fu ricoverato quindi a casa, vennero prestate le cure d'occasione, gli studi vennero interrotti. C'è un altro avvenimento subito dopo di cui dobbiamo riferire. Nel 46, cioè due anni dopo, è molto importante che tutti i dati filologici, per così dire, siano chiari, perché una lezione universitaria, perlomeno come io la intendo nella mia ormai secolare carriera, per così dire, avendo cominciato a insegnare all'università che avevo 25 anni, quindi potete figurarvi voi quanto è passato, è questa, che si discute di idee e si discute intorno alle idee, no? Sulle idee che vengono fornite dal testo e intorno alle idee. Ma poi bisogna avere una struttura di dati molto precise che vengono chiesti agli esami, e quindi l'occasione, la causa spesso di bocciature spaventevoli che avvengono e che sono attribuite a me, giustamente, obiettivamente, è proprio che questi dati non si conoscono. Quindi siamo nel 46 e la sorella di 3 anni minore si sposa con un imbecille, si chiamava Omar. E la sorella si sposa e avviene un matrimonio abbastanza curioso, un viaggio di nozze abbastanza curioso, perché io non lo so, quante di voi sono sposate, ragazze? C'è qualcuna sposata? Non c'è nessuna sposata. Lei non è sposata nel frattempo, credevo. Mi era giunta voce che era rimasta incinta. No, questa è una mia allieva, ma sapevo di una sua gravidanza clandestina. Non è così invece. Chi va nel viaggio di nozze? Gli sposi. E insieme agli sposi chi va? Quando lei si sposerà, chi vorrà che... Ascoltimi. Chi vorrà che venga insieme a lei, oltre al suo sposo, nel viaggio? Nessuno. Sono un po' stupito. Papà, mamma? No. Suo fratello? No. Sorella? No. La famiglia di Flaubert era costruita in modo un po' strano, perché nel viaggio di nozze andarono i due sposi, ovviamente, i due genitori di lei, della sposa, e lo stesso Gusti, lo stesso Flaubert. Una scena molto importante da raccontare, analoga per i suoi sviluppi poi a quella che fu costituita l'epilessia, fu quella di una visita a un palazzo, a una mostra. C'era in questo palazzo di Genova, il palazzo Balbi-Senarega, una mostra, e in questa mostra c'era un quadro, e questo quadro era un quadro di Bruegel il Vecchio. Voi sapete, ci sono questi grandi pittori fiamminghi che sono i Bruegel. Ecco, per esempio, questo è un caso tipico in cui, adesso io vi farò un piccolo gesto che diventa emblematico. Adesso il gesto è questo: cosa si deve fare quando io dico Bruegel? Andare a vedere un po' un'informazione, insomma, questo vuol dire studiare. Dovete fare sempre questo gestino qui e il dizionario, portarlo, questa è una cosa molto importante che non vi ho ancora detto, portarlo sempre con voi anche al bagno. Cioè, quando andate al bagno, per necessità fisiologiche, dovete avere il dizionario vicino, perché se vi viene in mente una parola curiosa, eccetera, potete vederla, no? Ho chiesto un esame a una ragazza, gli ho chiesto cosa vuol dire parte che? Cosa vuol dire parte che? La ragazza non mi ha risposto, e io ho detto, molto grave questo. Vuol dire mentre. Se lei avesse un dizionario anche al cesso, lo saprebbe, no? Bruegel era il più, Bruegel il Vecchio era il più interessante, il più importante di questi pittori fiamminghi, gli altri dopo sono stati meno importanti. E un quadro che fa Bruegel il Vecchio si intitola La tentazione di Sant'Antonio. Voi sapete che c'è un topos letterario, pittorico, quello del santo, che stava in Egitto, se non sbaglio, e che in un romitaggio, mi pare che fosse l'Egitto, non sono sicurissimo, mi pare di sì, in un romitaggio viveva assediato dalle sue tentazioni. Se no che santo sarebbe stato? Uno è santo se resiste dalle tentazioni. Che tentazioni erano? Cioè, che tentazioni può avere un santo? Qui lo chiediamo a una ragazza che forse di tentazioni, se non so, dico così per dire, se ne intende. Donne, vedi come subito però è l'occhio è arrivato, donne, un monaco ha bisogno di, capito, di concludere, vorrebbe concludere, quello, ma non solo, è un monaco. Quindi quali sono le tentazioni che può avere un uomo di religione? Quelle di contraddire la religione, quelle dell'eresia. L'eresia, anzi, una tentazione che può essere anche più intensa della tentazione, della tentazione invece dei sensi, data dai sensi. E quando vide questo dipinto in cui era rappresentata la tentazione, le duplici tentazioni del santo, e poi naturalmente il colore fiammingo, voi lo conoscete, l'avete presente, quella cura somma dei particolari, dei dettagli. Qualcuno aveva detto, se Dio c'è, è nei dettagli. E la pittura fiamminga eminentemente, questa è una bella frase, ricordatela, se Dio c'è, è nei dettagli. E cominciò a capire che quello era il suo mondo. Quando uno scrive, ma quando uno dipinge, quando uno fa musica, il problema, un artista, è quello di trovarsi, come diceva Proust, la sua patria interiore, di trovarsi il suo mondo. E se uno trova il proprio mondo, può avere anche delle abilità tecniche notevolissime, ma nulla fa. È il mondo che diventa la grip dell'artista. No? Mi viene in mente così per primo contatto, per pura associazione. L'altro giorno vedevo, voi sapete che c'è stato un grande, come potremmo definirlo, pittore. pittore o scultore, che era Fontana nel XX secolo, e che aveva, faceva delle tele, ma forse pittore, non lo so, faceva delle tele in questo modo, con dei tagli che attraversavano la tela. Naturalmente potete immaginare, il buon senso comune veniva terrificato da questo, ma chi è che continua a fare? Forse il vento che cerca di... Era terrificato dalla banalità di queste cose, e ricordo che la buon'anima di mio zio, che però era persona, bravo uomo, ma certamente non versato in cose artistiche, diceva, ah, quelle cose lì sarei capace anche di farle io. No, di fronte all'arte astratta, la tentazione dell'uomo comune, quello di dire, ah, ma quelle sono sciocchezze, di fronte a un Picasso, quando cominciò appunto, no? Queste cose qui siamo capaci di farle anche noi. Eh no. Quei tagli, quel senso della spazialità stretta e debordante al tempo stesso, erano un colpo di genio. Ogni artista, ognuno che voglia essere artista, cerca affannosamente in sé, nel corso della vita giovane, finché diventa artista, non mastichi la gomma, eventualmente la sputi in faccia alla ragazza vicino. È un mio vecchio precetto. Ha capito? Quindi così imparerà la ragazza a stare vicino a uno dei maschi. Beh, sputi. Non si sta con la gomma davanti al professore. Sono stato chiaro? E cercare il proprio mondo è difficilissimo. Come si fa a trovare il proprio mondo? Libri, professori servono, senza alcun dubbio. Amici, esperienze vitali. E improvvisamente, per esempio, dico per dire, un violinista, uno che ha studiato al conservatorio per molti anni, apprende che la sua vocazione è il jazz. E quindi cambia, no? È bello e affascinante cercare la propria strada, e quando Flaubert vide, che cos'era l'eresia? L'eresia era la violazione del buon senso comune, voi capite? Quando vide l'eresia rappresentata su questo quadro, quando vide il sesso, che è antonomasticamente la violazione, pensò che quelle cose dovevano influenzarlo, avrebbero dovuto per forza influenzarlo, e questa tentazione di Sant'Antonio lo spinse a prediligere il gusto delle immagini. Che cosa è più bello nella vita che seguire le immagini? Diciamo che di immagini uno si può innamorare, si può intossicare, chiunque abbia avuto esperienza, anche minime, mi auguro, nei casi vostri, insomma, di droga, sa che in fondo poi l'attrattiva maggiore è proprio quella di vivere tra immagini conturbanti. Io ricordo una volta che per puro sbaglio avevo preso una medicina, che però era una medicina, insomma, che poi è stata ritirata dal commercio per ovvi motivi, avevo fatto un sogno, ecco, una cosa molto flaubertiana, avevo fatto un sogno di una tettoia vicino al mare, e di una mattina, in un'alba però intensissima di luce, nel silenzio assoluto, dei buoi andavano verso il mare, erano buoi azzurri, era un quadro meraviglioso, buoi azzurri che andavano verso il mare. Mi svegliai con un dolore qui proprio alla testa, era una cosa splendida, capii che la medicina doveva essere, il farmaco doveva essere eliminato. Potrei anche dirvi il nome del farmaco, che è tuttora in commercio, ma non ve lo dirò naturalmente. No, è che è stato eliminato, ma non so, credo che non ci sia più in commercio, credo che non ci sia più. Che cos'è un'immagine? Che cos'è un'immagine? Un'immagine è qualcosa di molto bello. L'eros è parte delle immagini, anche se non si è esplicitato. Intendo dire, vi sono immagini bellissime in cui non c'è una natura erotica, ma assumono una natura erotica. E lui pensava che star dietro le sue immagini letterarie era la cosa più bella per lui. no? Era la cosa più bella, costruire attraverso in fondo questi piccolissimi elementi che sono un soggetto, un predicato, un complemento, degli aggettivi sapienti, costruire delle immagini. Ma questo aveva anche una natura erotica, sentite lo slittamento di una cosa all'altra, e ha scritto un passo, ha scritto in una lettera, una cosa meravigliosa che adesso vi leggo. Per queste citazioni, che naturalmente non fanno parte, ma che voi lo prendete semplicemente come punto di riferimento, comunque mi riferisco a sempre alla Pleiade, naturalmente, che è l'unico testo che viene consultato da me, e è il volume secondo della corrispondenza di Flaubert, che è la più bella corrispondenza. Colgo l'occasione per cominciare a dirvi questo: la corrispondenza di Flaubert è la più bella corrispondenza di tutta la storia della letteratura mondiale, senza alcun dubbio. Per esempio, Proust è sommo scrittore, io ho tutti, credo, 18 volumi della corrispondenza di Proust, e sono brutti, danno notiziole di fedi ver, fatti di cronaca, niente di stimolante. Nella corrispondenza di Flaubert troviamo cose che sono perfino più belle, in certi casi, perfino più belle, dei suoi due, dei suoi tre capolavori che ha fatto poi, che sono L'Éducation, Madame Bovary e il racconto Encore Simple. Quindi questo è C2439, a chi interessasse, lo trovate da qualche biblioteca. C2439. Allora, questa lettera è una lettera a Louis Colletti. Fra poco parleremo di Louis Colletti, fra pochissimo. Vi annuncio che Louis Colletti era la donna di Flobby. Dice questo, ve lo traduco direttamente dal francese. Comincia così. Lettera importantissima, lettera del 26 settembre 1853. Siamo in piena fattura costruzione della Bovary. Va bene? La Bovary è stata scritta nell'arco di 5 anni, dal 51 al 51, sì, 52, 51, 52 al 56. Vi anticipo quello che vi dirò fra un momento meglio. Louis Colletti è non soltanto la donna del nostro, ma è la sua interlocutrice, meglio, il ricettacolo in cui versa la sua straordinaria capacità intellettuale. In queste materie del resto, dice, ho sempre l'aria, non importa quali siano le materie, di un piatto borghese e di un canai e di un farabutto. Io, sentite che bene, dice, me ne sto tranquillamente a scaldarmi i piedi al focolare in una vestaglia di seta e in quello che si può chiamare, a rigore, un vero castello. Vi ho detto che la casa sua era una specie di castellotto sulla Senna. Mentre tante brave persone che valgono più di me e si dannano l'anima per con le loro povere mani d'angelo, e poi io non ho da preoccuparmi del mio pranzo, cosa immensa, e che una volta apprezzavo poco, quando, pieno di fantasie di lusso, volevo goderne nella vita. Il fatto di avere una vita semplice, di poter mangiare, lui non aveva certamente problema di denaro, di poter mangiare, no? In casa, servito, onorato, eccetera. Lui prima lo valutava poco e pensava, come molti giovani, che fosse invece molto più bello abbandonarsi a fantasie di lusso. Non abbandonarsi a fantasie di lusso, no, che voleva anzi viverle queste fantasie, viverle. Ma mi sono congedato da tutte loro, dice, e fuggo queste idee di lusso come malsane. In fondo sono piccole e partono dal più basso dell'immaginazione. E qui c'è questa frase meravigliosa. C'è un trattino per indicare che mette in particolare rilievo, in risalto, la lineetta, quello che sta per dire, e dice: il fosse verde a rendan la tête, bisogna farsi degli harem nella testa, dei palazzi con lo stile, bisogna drappeggiare la propria anima nella porpora dei grandi periodi. Per chi studia lettere, queste frasi non possono che dovrebbero suscitare il massimo degli entusiasmi. Lei è entusiasta? Non mi sembra sia entusiasta. Ha un'aria vagamente podagrosa e addormentata. Sta dormendo? No? Quante sono queste? Due. Lo ripeto, perché questa ragazza stava completamente dormendo, stava abbioccandosi, una cecagna incredibile. Quindi ad uso vostro, non di lei, che ascolti adesso, in questa seconda manche, ascolti, non dorma. Dunque, bisogna farsi degli harem nella testa. Questo potete sempre scriverlo, questo a memoria, letteralmente. Palazzi con lo stile e drappeggiare la propria anima nella porpora dei grandi periodi. Questo è un inno alla scrittura, alla letteratura, come forse mai sono stati fatti. E guardate adesso come è intrigante, come si dice, questa frase. Perché gli harem che cosa sono? Cos'è un harem? Cos'è un harem? Lei ha una faccia da harem. Che cos'è un harem? Dico apposta. Cos'è? Non ho capito, non lo sa. Lei no. Lo chiediamo a una ragazza che pratica invece di queste cose qua, per un po' adesso. Monia, senta una cosa, cos'è un harem? Posso di piacere. Cosa si la parola harem, che è una parola araba evidentemente, e cosa sono gli harem? Sono i luoghi in cui i ricchi califfi tenevano le donne, no? Per servirsene quando volevano. Va bene, quindi un harem è un luogo emblematico di piacere. Voi sapete che nella fantasia un po' ingenua maschile un uomo vorrebbe avere tante donne. E si può analizzare il come e perché questo avvenga, questa fantasia. Forse perché si stufa solo di una, o perché è troppo seccante avere a che fare solo con una, no? Però, per esempio, un'obiezione che mi è sempre venuto di fare è questo: normalmente uno che ha un rapporto con una donna, lo spiego a lei, lei fa attenzione invece alla donna, è che uno ha a che fare con il periodo mestruale della propria compagna, che comporta degli squilibri d'umore, metti 2 giorni prima, poi dopo, quindi su 5 giorni. Se tu hai 10 donne, no, non è che il problema è peggio, devi sopportarti, devi cuccarti 2-5 per 10 donne 50 giorni al mese, è una cosa assolutamente terribile, a meno che non ci siano delle coincidenze in alcuni. Comunque, un'immagine dell'uomo infantile è questa. Un grande film che forse qualcuno di voi dovrebbe conoscere, che è 8 e mezzo di Fellini, Mastroianni, che è il protagonista, per l'appunto, ha questo sogno di poter vivere fra tante donne, che siano tante, cioè non donne piccoline, striminzite, piccole tette, no, tutto invece ampio, godurioso, no, grandi, capito? Avete capito cosa? Però gli harem, dice Flaubert, non devono essere vissuti, ma deve averli nella testa. Bisogna farsi degli harem nella testa. Questa prima indicazione, che gli harem evidentemente sono le donne da vivere nella testa, quindi in regime di masturbazione, eccetera, eccetera, si unisce però a una precisazione che lui sta parlando della scrittura. E quindi dice che, slitta verso questa precisazione di senso, e dice quindi che bisogna farsi dei palazzi con lo stile. Che cos'è un palazzo? Me lo dice lei, cos'è un palazzo? Noi romani diciamo nel palazzo mio, anche per indicare un orrido condominio di Torbella, ecco, no? Nel palazzo mio, star palazzo mio. Avete presente? Ma il palazzo cos'è di per sé? Me lo dice lei, per favore. È una costruzione ad ipotetico scopo abitativo. Ad ipotetico, no, ma anche effettivo scopo abitativo. Ma per esempio, prendiamo l'amato presidente del Consiglio. Dove abita? Abita in un tugurio, dove abita? Sicuramente non in un palazzo. Insomma, abita in un palazzo. Sì, ma un palazzo solo per lui. Esattamente. Quello. Quindi un palazzo è un'abitazione sontuosa. Allora capisce che qui la cosa fantastica è questa, che tu scrivendo, cioè facendo dei piccoli segnetti sulla carta, però puoi costruirti un palazzo. Se scrivi male, se sei povero nel lessico, ovvero nella sintassi, tu riesci a scrivere come parlerebbe Maurizio Gasparri, come scrive, avete presente, immaginate Maurizio Gasparri scrittore, insomma, no? Ecco. Ma tu puoi diventare un grande scrittore e quindi le tue parole diventano, costruiscono dei palazzi. Bisogna drappeggiarsi, dice lui, approfondendo il concetto, con la porpora dello stile. Qui non appulcro nulla perché è molto evidente il tutto. Quindi bisogna, il discorso è nato in questo modo. Io sono uno che ha prima avuto un sacco di pensieri, di fantasie, di vivere il lusso. Non mi accontentavo delle cose semplici della vita quotidiana. Adesso mi rendo conto che gli harem che posso inseguire, il lusso che posso inseguire, deve essere nella mia testa, sia che si tratti di femmine, sia che si tratti di scrittura. Chiaro tutto? Benissimo. Con questa idea, scrisse La Tentation de Saint-Antoine, che è un libro strano e abbastanza brutto, ma fondamentale per capire Flaubert, in cui mette insieme eros, eresie, gusto delle immagini in uno stile sempre più sofisticato. Lo scrive in un impeto e crede che la bella scrittura sia quella se non che quando poi sottopone questo scritto ai due amici più cari che aveva, che dovete ricordarvi che sono uno Maxime Ducamp, con Cécile Camp, e l'altro Louis Bouillet, H-E-T, di conseguenza è una lettura. Voi sapete che quando uno scrive, una delle disgrazie dei contubernali, come dico io, una parola da me inventata, dei contubernali di chi scrive, è che trovi a un certo momento l'amico che gli dice: posso leggerti una mia poesia? Ecco, questa è una delle cose più spaventose del mondo. La mia teoria è, naturalmente ho dovuto lottare molto nella vita con gente che ha cercato di farmi leggere le sue cose, eccetera. Ecco, una volta ho detto gentilmente a una persona di sesso femminile, gli ho detto: guardi che lei ha delle... era una ragazza piena di buona volontà, insomma, gli ho detto aveva stampata sulle spese questo volume di poesia. Io gli ho detto: senta, lei ha alte probabilità di vincere al Superenalotto il 6, credo che sia il 6, no? Il Superenalotto, lei lo gioca al Superenalotto? Ma che cazzo fate? Ma non fate una cosa, non fate un'altra, ma come vivete? Non fate niente, ma insomma, ma dove, che vita vivete? Ma come piccoli, ma come sarebbe a dire, Superenalotto non fuma, non si droga, non... Qual è quello che dice? Allora sei. Allora ho detto questo. Che probabilità ha lei di vincere al Superenalotto vincendo 159 mila miliardi di euro, eccetera, eccetera? Lei mi ha detto: nessuna. E io gli ho detto: ci sono minori probabilità che lei scriva una bella poesia. questa frase, la ragazza se l'è ricordata per sempre. Non lo so, non si è più fatta vedere. Non lo so, non si è più fatta vedere. Gli amici di Flaubert erano amici, no? Nella vita di uno scrittore ci sono queste vittime. Io ricordo la mia povera mamma che ascoltava un nostro amico di famiglia che le leggeva la sera il suo romanzo che stava facendo. E mia mamma, che era una signora nobile, di alta nobiltà, una persona molto fine, eccetera, però non poteva trattenere a un certo momento quel tipico tentennare della testa verso il sogno, naturalmente, mentre lui lo leggeva. Lui continuava a leggere, implacabile, e mia mamma andava avanti e indietro, in oscillazione da metronomo, naturalmente, no? Poi sorridendo al momento opportuno per far vedere che seguiva, ma in realtà non seguiva affatto, facendo dei sorrisi così, eccetera. Bouillet e Ducan sorbirono questa lettura per 4x8 per 32 ore. Cioè, era ospite, ospitioso, ci mancherebbe altro, almeno mangiare. 4 giorni, 8 ore di lettura, 4x8, sì, 32, insomma 32 ore, lesse questa tentazione per 32 ore. Alla fine, con quella sorta di furia e di spirito vendicativo che viene sempre quando un amico ha dovuto leggersi tutte le cose che tu hai scritto, dissero a Flaubert: la cosa che devi fare è prendere tutta sta roba, buttarla nel fuoco e non pensarci mai più. Flaubert incassò il colpo e disse: ma che cosa devo fare a questo punto? E loro gli suggerirono di scrivere una storia semplice, una storia semplice, e di vita vera, non di Sant'Antonio, che... Io, lei frequenta Sant'Antonio? No, diciamo così, no? Delle eresie, di queste cose, una storia di vita vissuta e limitando le immagini. Lui ci pensò su e decise di fare un viaggio fuori, ma questo viaggio fu benefico. Fu un viaggio con uno dei due, con Maxime Ducamp. E ne parleremo fra poco di questo viaggio, però alla fine di questo viaggio nacque il libro dei libri, nacque Madame Bovary. Fu per lui la scrittura della Bovary una sorta di castigo, di punizione. Diceva che era un cilicio, il cilicio è quello strumento che si portava da parte di persone religiose, no? Molto, per soffrire. La Binetti, quella della politica, è una che ha detto, dichiarato che porta il cilicio sotto le vesti per punirsi. Nessuno di voi porta il cilicio? Lei non porta il cilicio? Con delle punte che nelle parti intime del corpo la trafiggano? No. Però il cilicio può essere a un certo momento, se tu hai voglia di fare espanderti, di doverti restringere. C'è una laureanda mia, che è una persona che crede di essere molto intelligente, e io gli ho detto che, gli ho detto questo in modo molto gentile, in verità, gli ho detto: signora, lei è assolutamente una persona intelligente, ma credo che la rovina della sua vita nasca dal fatto che lei crede di essere molto intelligente. È questo avverbio che fa difetto. E quindi, siccome tende a essere flaubertiana nella concezione dei suoi pensieri, io ho suggerito amabilmente di restringersi, di prosciugarsi, questo è importante. Lui scrisse la Bovary con questo spirito. Le immagini, queste immagini, la porpora delle immagini, sarebbe stata sacrificata. Se voi prendete l'incipit memorabile della Bovary, vedrete che è l'opposto di qualunque festa delle immagini. La Bovary comincia con questa frase: nous étions à l'étude quand le professeur entra. Eravamo nella sala di studio quando entrò il preside. Più referenziale di così una frase non poteva essere. La Bovary venne scritta, diciamolo subito, contro la borghesia. Abbiamo parlato ieri della borghesia. Venne scritta da un borghese, badate bene, contro la borghesia e quindi contro se stesso. Quindi non era solo un cilicio dal punto di vista formale, perché le immagini doveva togliersele, gli aggettivi doveva farli scomparire il più possibile, ma anche da un punto di vista, per così dire, contenutistico, perché chi doveva essere crocifisso era lui borghese. A che voi potreste dire, ma come lui borghese? Ma lui non è un personaggio della Bovary, e invece sì. E allora voi mi chiederete, e chi è nella Bovary Flaubert? La Bovary è Emma, è lei stessa. Quando dice che Emma è cogliona, lo dice di se stesso. In questo libro viene amministrato con una abilità infinita un elemento di demistificazione, che è il riso. Il riso. Mi viene in mente, a questo proposito, uno dei libretti, un libretto, ma tra i più notevoli che mi sia accaduto di recensire quando lavoravo sui giornali anni fa, molti anni fa, era un libro che molto notevole di Louis-René Desforêts, che si intitola Le Bavard, il chiacchierone. Scrivetevi questo titolo, è un bellissimo libro. René Louis Desforêts, uno scrittore della prima metà del secolo. Sono libri che pochi conoscono, intendiamoci, li conoscono gli addetti ai lavori. Ed è di uno che parla in una sorta di eretismo. Sono delle persone che si sentono parlare, no? E questo è come una sorta di immenso orgasmo, proprio in senso proprio, che si crea. E questo suo parlare, il titolo giusto appunto è Il chiacchierone, alla fine viene tagliato, mozzato dalla donna con funzioni castratrici, che gli ride interminabilmente in faccia. Immaginate che scena fantastica. Uno che ha cercato in tutti i modi di sedurre parlando la donna, questa l'ha ascoltata in silenzio e alla fine gli ride in faccia. Il riso è un'arma terribile. Guardate per esempio in quelle risse orride televisive, quella merda che noi vediamo alla televisione, eccetera. Guardate come questi squadri di individui cercano di distruggere l'avversario quando l'altro sta parlando, sghignazzando, no? Prendendolo in giro, ecco, quindi togliendo ogni valore alla loro persona. Il riso è un'arma terribile. Vi leggo ancora semplicemente questa dichiarazione sull'importanza del riso. Questo è un libro bellissimo, stranissimo, da cui prendo qualche citazione per comodo, che si intitola, e se lo trovaste da qualche parte, vi raccomanderei di leggerlo, perché è un libro geniale, si intitola Il pappagallo di Flaubert. È apparentemente un romanzo, è il romanzo di uno che è innamorato di Flaubert, in cui si parla di Flaubert e in cui a poco la storia di Flaubert viene a coincidere con la storia sua personale. E però è pieno di dati reali, scientifici, insomma. Sentite quello che dice sul riso. È un pensiero del 1852, siamo agli inizi del periodo della Bovary. Io rido di tutto, anche di ciò che mi è più caro. Non c'è cosa, non c'è evento, sentimento o persona al quale non abbia applicato allegramente il mio spirito beffardo, come un rullo di ferro, passando sul tessuto, gli conferisce lucentezza. Questo è importante, cioè nulla può essere, può sottrarsi al riso. Sul valore profanante del riso, naturalmente le autorità ne sapevano molto, per esempio della Chiesa. Non so se l'adagio famoso lo conoscete, scherza coi fanti ma lascia stare i santi. Una delle cose che ha sempre più colpito chi guarda la vita della religione è l'assenza del riso. Nel Vangelo Gesù non ride. Eppure, come diceva D'Arezio, nihil humani a me alien puto. Niente di ciò che è umano mi alieno. Io mi sono sempre chiesto, ma se Gesù Cristo è l'uomo, perché non ride? Cioè, mettiamo pure che Gesù Cristo non commetta peccati, anche se, questa è una parentesi, anche se la natura dell'uomo è quella di commettere peccati. L'uomo è il suo peccato. Pasolini, il cui nome dovreste quantomeno conoscere, anche nonostante la vostra giovanissima età, diceva in una sua pagina splendida, diceva, l'uomo ha il dovere di peccare, cioè ha il dovere di essere uomo. Un uomo che non pecca non è un uomo. E quindi Gesù non peccava, e vabbè, ma uno si chiede, ma perché non ride? Perché è una mancanza che uno sente. Ma perché non ride? Forse si può dare una risposta, ma perché il riso è profanante. Non c'è nulla di più profano del riso. E Flaubert, nel suo attacco alla borghesia, capisce che la sua arma letale è per l'appunto questa, il riso. Premiamoci qui. Allora avete capito, con quelli ragazzi di Flaubert, ci vediamo lunedì, ma dalle 13 alle 14. Adesso facciamo l'ora del simbolismo.